Tutto si fa per te, tutto, pur di piacere a te, tutto, per un tuo bacio, per un sì, per un no, per te, perché sei tu. Gioia di vivere, donna, favola splendida, sei tu, solo tu, quel desiderio che l'uomo chiama amore. Donna, tutto si fa per te, tutto, pur di riavere te.